Questo è un estratto da N, giusto? Sì, non potevamo farlo tutto, anche se questo sembrava un finale. Antonio Sinisi, ben ritrovato, come anche ritrovata. Eccola qui. Lei si deve sempre sistemare. Elisa Turco Oliveri. Alla base di tutto c'è un racconto di Alex Cantarelli. Sì, c'è una proposta che mi era stata fatta un po' di tempo fa, prima che si progettasse il festival. Era l'idea di mettere in scena uno dei racconti che fa parte di questa raccolta, che si chiama 2142, e lui me ne ha proposti due. Io ho scelto questo qui, che sembrava un po' più, interessava di più lavorare su questa cosa qua, di questo luogo che ancora non si capisce se è immaginario, se è reale, se esiste, se non esiste, insomma. Oh, sostanzialmente si tratta di un monologo. Tu come ti ci sei avvicinata, Elisa? È stato un po' difficile, perché sostanzialmente si tratta di una descrizione, no? Di questo luogo immaginario, utopico, meraviglioso e perfetto, e quindi interpretare una descrizione, insomma, è stato un po' difficile, e quindi abbiamo un po' ricondotto tutto il lavoro a una sequenza fisica, quindi c'è un lavoro sul corpo abbastanza forte. E sulla voce. E si è sentito adesso in radio. Non ci dimentichiamo che corpo e voce vanno sempre insieme. Oh, ecco, proprio a questo proposito, dal testo al palcoscenico, come l'hai pensata, Antonio? No, vabbè, in senso, avendo come attrice Elisa, c'era sicuramente un lavoro che si poteva portare dalle parole al corpo e dal corpo alla voce, insomma, questa era la sequenza. E diciamo che nell'excursus dell'intero pezzo, insomma, credo che si possa avvertire questi passaggi qui, per cui dal semplice raccontare ci sia un passaggio più fisico, più corporeo. Tra l'altro oggi abbiamo incontrato anche l'autore, che ci ha detto che lui ha vissuto in maniera commovente l'ascolto e la visione del lavoro, e ha notato che delle parti che andavano più sul corpo erano funzionali a quello che lui aveva scritto. Quindi, insomma, tu hai, Elisa, non sbarrare gli occhi. Oh, rispetto alle indicazioni di Antonio, quanto invece hai messo del tuo? Ma diciamo che cerchiamo di lavorare sempre un po' in sinergia, nel senso che lui mi dà un po' delle basi su cui poi alla fine io improvviso e si scarta del materiale. Anche se, insomma, è stato anche abbastanza difficile, nel senso che poi ovviamente a me questa cosa ha portato da una parte, a lui da un'altra, quindi trovare un punto d'incontro è sempre un po' una sfida, però questo è anche il bello del lavoro, credo, no? Sì, sì, sì. Reinventare un luogo che non c'è, e spero che poi si veda qualcosa. Vedere qualcosa, si vedrà sicuro qualcosa. No, c'è un trasportare, cioè, insomma, bisogna spostare un attimo l'attenzione dallo scritto alla messa in scena, insomma, quella è la cosa. Il fatto che ci siano due visioni già ci porta a noi fuori, e dovremmo portare anche il pubblico un po' fuori dallo scritto, altrimenti sarebbe comodo leggerselo il racconto. Certo. Sarà a casa, tranquilli, sul divano, o venire qui a Radio Onda Rossa e leggerselo nei divani qui comodi, che ci sono. Nella nostra sala di lettura. Sì, no? Sì. Elisa, noi ti abbiamo avuta già ospite qui al Radioteatro. Ultimamente su cosa hai lavorato, e invece anche prossimamente dove ti si vedrà? Allora, prossimamente sono in lavorazione con un progetto nuovo, più di teatro fisico che non di parola, e sarò a Milano a marzo con questo lavoro che si chiama Strategia K, nello spazio Zona K. E invece, prima ancora, me l'ho dimenticata, siamo con Quad Super Erat, saremo ad Albano, Genzano, all'interno di una rassegna che si chiama Teatri di Quartiere. Teatri di Quartiere. Sì, esatto. Ma comunque il teatro fisico fa parte, insomma, del tuo bagaglio. Sì, perché c'ho sempre un po' dei problemi io con le parole, nel senso che secondo me anche, cioè, in questo momento storico bisogna stare un po' attenti a come si dicono le cose, a perché si dicono, all'esigenza reale di utilizzare la parola. in teatro poi c'è, guardiamo veramente come stiamo comunicando ultimamente, c'è un'individualità, si comunica attraverso tablet e schermi e tastiere, e quindi come faccio io a parlare veramente a qualcuno? Cioè mi devo spogliare totalmente di una serie di istituzioni vocali che quando uno fa l'attore acquisisce automaticamente, e questa cosa è molto difficile secondo me, e mi mette in crisi, per cui a volte scelgo di lasciare la parola evocata e non propriamente detta. Antonio, invece, da poco tempo si è svolto Logos, l'edizione 2013. Ma per me è molto è remoto. È remoto perché praticamente dopo sono avvenute talmente tante cose che insomma sembra quasi che già stiamo pensando all'anno prossimo. Però un bilancio? No, il bilancio di Logos positivo, le cose erano tutte quante molto, molto differenti tra loro. Al centro c'era la città, che è stata attraversata attraverso tutti gli spettacoli che c'erano, e quindi insomma è stato molto positivo. Poi rispetto all'anno precedente ancora, insomma, c'è stato un salto, insomma, sempre la sala piena, insomma, quindi bel lavoro. Devo chiedere che cosa faccio adesso? No, visto che insomma ne hai parlato quasi in termini di passato remoto, voglio sapere che è successo dopo. No, sono successe tante cose. Innanzitutto c'è il lavoro che ti volevo ricordare, che noi siamo partiti qui, ti ricordi? Siamo venuti con i Susi Suscia. Ah, come no? Siamo partiti qui e adesso tutte le settimane stiamo su Radio Sonar. Ah. È considerata concorrente. Cos'è Radio Sonar? Radio Sonar fa sede a Scoop. E è la radio che si appoggia anche al San Papier. Ah, ok. E noi ogni settimana ci trasferiamo lì e facciamo portiamo il radiodramma, che poi il primo episodio era stato presentato proprio qui alla tua trasmissione. Sì. E come funziona? Una puntata, avete uno giovedì. Spazio settimanale il giovedì, e questo audiodramma? Radiodramma che ogni puntata quanto è? Allora, ogni puntata dura un'ora. Una parte è dedicata. Mica è poco, eh? Non è poco, però. No. Un'ora settimanale. Insomma. Un'ora settimanale è un bel po', in un palinsesto. Abbiamo la parte che riguarda la traccia dell'episodio, e poi ci sono le nostre voci in studio che si intrecciano e si attraversano e si parlano. Quindi quando è cominciato e dove, a che punto siete arrivati adesso? Siamo arrivati alla. Domani registriamo la sesta. Siamo a metà strada, le puntate sono 11 e quindi vediamo come va. Quindi voi le registrate e poi vanno... Sì, il radiodramma è già registrato, quello era già pronto, okay. La registrazione la facciamo come se fosse diretta il giorno prima di quando va in onda. Senti, quel progetto come ti sta prendendo? No, quello bene, quello sta andando tutto bene, poi c'è la partenza all'Aquila imminente successiva allo spettacolo che facciamo con Elisa. E quindi lì faremo un lavoro di ricerca per poi presentare lo spettacolo di tutti i gruppi, compresi non tanto precisi, ad aprile proprio all'Aquila. Diamo dei riferimenti web per quanto riguarda entrambi voi. Vai Elisa. Elisa c'ha 7.000. Ma non è vero, non è vero. No, Elisa, allora tantissimo. Ne ho uno solo, ma è difficile perché è in francese, è Dehors / Odelà, scritto Dehors au Delà, che è il mio blog. Una ragazza complicata. con la pronuncia francese, l'accento, si metterà l'accento, au Delà, c'era Dehors. Sì, Dehors. Dehors / au Delà. Oh. Au Delà. Punto. Ah, già, tutto questo qua. Punto com. No, punto. È un blog. Blogspot.com. Sì, ok. Ti devi correggere lui. Ma io la devo correggere sempre. E te, Antonio? Io sono proprio semplice. AntonioSinisi.tumblr.com. Sei un ragazzo semplice. Sono un ragazzo semplice alla fin fine. Tutti dicono che sono complesso. No, ma quando mai? Allora, ricordiamo questo appuntamento. N sta per. Tutte le cose che abbiamo scritte lì nella presentazione, no, ma com'è venuto fuori questo titolo? Il titolo è dell'autore, io l'ho lasciato, mi interessava la lettera e basta, poi c'ha tanti significati, insomma, nessuno, niente, nulla, ennesimo, insomma. Legato a parole comunque. Sì, legato a parole, a luoghi, insomma, nulla può essere un luogo, non so, nel senso, tante cose, mi è piaciuto lasciarlo così com'era. Ok, ricordiamo l'appuntamento? Sì, 6 dicembre 2013, ore 21, Tango Officina, via Cupa numero 5 a Roma. Via Cupa sta vicino Piazzale delle Province, non vi sbagliate. Non è via Cupra, è via Cupa. Cupa numero 5. Elisa, Antonio, vi ringrazio, grazie di questo assaggio. In scena, che è un po' il doppio praticamente rispetto a quello che abbiamo sentito. Sì, siamo intorno ai 25 minuti. Tutte le cose che vengono rappresentate più o meno, perché ci saranno quattro pezzi, di quel secondo è il nostro, durano intorno ai 25 minuti. Immagino anche qualche elemento scenico. Non lo rivelare, Elisa! Va bene, c'è una sorpresa. Non lo dire! Sapessi. Quella, infatti, no, perché quello ci deve, quello è la parte forte. Tutti, no, sai perché poi Federico vogliamo che vieni tu. Se vieni tu, Piazzale del Corovice, ok. Sta vicino alla radio. Via Cupa 5, via Cupa 5. Via Cupa 5. Non morirai, non ti preoccupare, non morirai. Grazie, a presto, ragazzi. Grazie a voi. Grazie a te.